Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Anni 90, sgoccioli del millennio, interno casa. Il tubo catodico del TV Color Mivar 32 pollici, 99 canali, rimanda lampi di azzurro intervallati da brevi glitch di silenzio, come il movimento di una palpebra. È lo zapping, lo sport serale delle famiglie italiane. Anche a Beverly Hills tutti preferiscono Game Geek. Sto nella mia... Colpo di scena questa mattina nel... Io ce l'ho profumato. Onestamente non lo so, che differenza c'è fra il maschio e la femmina dell'uccello? Guerra nel Golfo, Tangentopoli, morte di Freddie Mercury, strage di Capaci, bombe su Sarajevo, suicidio di Kurt Cobain, strage di Via D'Amelio, Forrest Gump, Baggio che sbaglia il rigore e uccide il sogno mondiale. Roberto... Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile. È l'ora di cena e l'Italia ha bisogno di una via di fuga dal reale, di una valvola di sfogo per non pensare, per non ascoltare, per chiudere gli occhi e lasciarsi andare, e lasciarsi andare. Ed incredibilmente la trova. In un macchinario giapponese inventato nel 1971, in una parola composta che significa letteralmente orchestra vuota. Il karaoke di Fiorello. Perché quando io registrai il karaoke andò malissimo, no? Avevo registrato 20 puntate, a terza puntata mi disse Fiorello: guarda, va troppo male, lo tagliamo, lo seguiamo, ti seguiamo. E tu, vabbè, chi se ne frega, mi pagate? Sì, vabbè. Dici, guarda, mandiamo in onda quelle puntate che ci sono rimaste. Ne erano rimaste una decina. Nel frattempo mai in onda 800.000, 900, 1.200.000, 1.400.000, 3.000.000, 3.200.000, con quelle 10 puntate, alla decima, Fiorello! Il primo talent show della storia racconta l'inizio di un fenomeno di oggi e di ieri, attraverso le canzoni che tutti hanno ascoltato, che tutti hanno sentito. Parole e note che conoscono a memoria e non si vergognano di cantare in pubblico. Anno dopo anno, pezzo dopo pezzo, dal localino alla piazza, ripercorriamo le tracce dei brani che hanno fatto cultura moderna. Le regine del karaoke. Prova microfono. Via con la base. Inizia Polaroid. Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. '77, Milano, studi ricordi, la fabbrica del pop. Corridoi e sale di registrazione sono una roulette di facce molto note. De André, Battiato, Milva, Mia Martini, Califano, Gaber, Patti Pravo ed altre sconosciute. Giovani artisti con le custodie piene di chitarre e speranze aspettano nervosamente un provino, una demo. Edoardo Bennato, Vasco Rossi, I Profeti. E sono proprio le facce come queste di cui vanno a caccia due loschi individui ben vestiti, due impresari senza scrupoli, il signor C.R. e il signor A.D. Punto. Approcciano chiunque dimostri un milligrammo di talento, lo portano in un locale costoso, lo farciscono di cazzate, progetti, promesse, droghe se ne ha bisogno, gli fanno firmare un contratto col sangue e dopo il primo singolo intascano tutto il grano e lo lasciano annegare nella sua nullità. Ma quelli erano gli anni 70. Al giorno d'oggi queste cose, dentro le etichette discografiche, per fortuna, non succedono più. Non succedono più. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti può. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti,

1979, Riviera Romagnola. Innamorarsi in Riviera è una strana emozione. Il paroliere Giancarlo Bigazzi, già autore di Montagne Verdi e Ti Amo, è immobile sotto l'ombrellone. Ma il suo cervello gira come il cestello di una lavatrice, in cerca di qualcosa. Un nome per una canzone. Per l'esattezza, un nome di donna formato da tre sillabe, che all'occorrenza possano diventare due, per stare sulla metrica della melodia. Quindi una roba tipo Monia, Tania o perfino Fulvia. Fulvia? Cristo, ma che cazzo di nome è per una canzone? Intorno a lui giocano i bambini, correndo, strillando, lanciandosi gavettoni. Le madri, severe, li redarguiscono. Giulio, non ti bagnare. Alfredo, stai all'ombra. Gloria, torna subito qui. Gloria, torna subito qui. Ecco, Gloria. Gloria. Perfetto, Gloria va benissimo. Stasera lo dirà ad Umberto, così chiudono sta canzonetta che hanno in ballo e possono pensare al Festival Bar. Gloria venderà 29 milioni di copie e apparirà in Flashdance, Automan, GT Vice, Will & Grace, Metal Gear Solid e The Wolf of Wall Street. E per oltre 40 anni una donna che non esiste continuerà a mancare come il sole nei karaoke di tutto il mondo. Gloria, manchi tu nell'aria. Che lei la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi fianchi. Yeah.

1980, Roma. Gianni vuole dedicare una canzone alla donna che ama, Anna, ma le parole faticano a venir fuori, come una zip incastrata che non va su o giù. Così decide di fare un giro a piedi e si lascia inghiottire dalla scalinata della metro, fermata Lucio Sestio. Linea A. Sul binario c'è un clochard, veste di marrone e macchie di vino. E canta. Urla frasi sconnesse, casuali, frammenti di una storia d'amore finita con una donna che mangia troppe caramelle. Gianni lo ascolta e, senza nemmeno accorgersene, annota su un taccuino le parole del barbone. Per ore, per giorni forse. Nella sua pericolante follia, quel reietto è una finestra sul mondo. Anzi, un oblò. È tardi, Gianni ritorna sulla strada, mette insieme i pezzi in disordine e scopre il testo della canzone incastrata dentro di sé. È una notte fresca. Gianni respira profondamente, alza gli occhi al cielo e vede una luna grande così, come solo quella stupida di Roma sa fare. Così, adesso, Gianni ha trovato anche un titolo. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metrò. Sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va. Tiro due calci ad un pallone e poi chissà. Non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no. Luna, luna, non mostri solamente la tua parte migliore. Stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle. Mangi troppe caramelle, luna, luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare. Ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte, luna. Guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Se sono triste mi travesto come Pierrot. Poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunti con Dio. Ho mille libri sotto il letto, non leggo più. Ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più. Parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così. Luna, luna, tu parli solamente a che innamorare. Chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, perché ho progetti più importanti. Luna, luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema. Il mondo è piccolo se visto da un'altalena. Sei troppo bella per sbagliare, sai capire, luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. A mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox. Poi sopra i muri scrivo in latino, evviva le donne, evviva il buon vino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è. Adoro le complicazioni, fanno per me. Non metterò la testa a posto, mai, a maggio vedrai che mi sposerai. Luna, luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare. In fondo è presto, l'alba ancora si deve svegliare. Qui siamo insieme ad ogni porta, se sembra sciocco cosa importa. Luna, luna, che cosa vuoi che dica, non so recitare. Posso offrire solo un fiore, poi portarti a ballare. Vedrai, saremo un po' felici e forse molto più che amici. Luna. 28esima edizione del Festival di Sanremo. Presentano Maria Giovanna Elmi e Beppe Grillo. La sala stampa è in subbuglio. I dirigenti Rai si negano al telefono. C'è aria di teste che saltano. Prima, quella ragazzina albanese, Anna Oxa, si presenta sul palco vestita da uomo, coi capelli da... come si chiamano quei delinquenti inglesi tutti truccati? Funk, punk, cielo, è così immorale. E adesso questo tizio calabrese vestito da... che cos'è? Un clown? Un gondoliere? Nel testo della sua canzone non trova niente di meglio che inserire la parola sesso. A Sanremo, in prima serata, davanti alle famiglie, davanti al Papa, i quotidiani conservatori li faranno a pezzi. E poi chi è questa Gianna che va in giro con coccodrilli e dottori? Che cosa vuol dire? Sarà un messaggio in codice per la massoneria? Per le brigate rosse? Per i libici? Niente. Non ha nessun senso. Spiegherà qualche anno più tardi Rino Gaetano. Ad un festival che non significa niente, ho portato una canzone che non significa niente. E viva la vita, chi vivrà, vedrà. Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Italia 1, ore 20. Eccoci qua per il... È inverno, fa freddo. Fiorello sfoggia un montone rovesciato e un cappellino al contrario che nasconde il codino, il secondo più famoso dopo quello di Roberto Baggio. È una novità. Infatti, di solito, indossa tre giacche di colori pastello nella stessa serata, perché in ogni piazza si registrano tre puntate e devono sembrare diverse una dall'altra. Prima canzone. Sale un nerdone con gli occhiali e il cappotto. Poi una ragazzina che non ha nemmeno 15 anni. Si chiama Elisa. Frangetta agghiacciante, sciarpa rossa al collo, sogna di fare la fioraia. La canzone è Questione di Feeling, di Cocciante e Mina. Questa piccolina come si chiama? Elisa. Elisa, piccolina, ma devo dire... Fai le medie? No, le ho già finite. Possiamo chiederti l'età? Devo fare 15 anni, però sono nata in dicembre. Lasciando uscire quello che ognuno ha dentro. Questione di feeling. Lasciando emergere in noi spontaneamente quel che c'è nascosto in fondo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La giovane Elisa Toffoli canta solo benino, perché tutto sommato mancano ancora 5 anni al quadruplo disco di platino per Pipes and Flowers. Per il momento è solo una concorrente del karaoke, come Laura Chiatti, Camilla Raznovic e Tiziano Ferro prima di lei. 1979, Genova. La cosa più difficile per un comico è scindere la persona dal personaggio che lo ha reso famoso. Lo diceva Paolo Villaggio, prigioniero per tutta la vita del ragionier Fantozzi. Lo sa Diego Abatantuono, incatenato al suo terruncello. E lo sa Andy Kaufman, protagonista con la faccia di Jim Carrey di quel piccolo gioiello che è Man on the Moon. Così accade ai cantanti legati indissolubilmente al successo di una canzone che odiano, il loro brano più popolare e al contempo più distante dal loro concetto di creazione musicale. Madonna detesta Like a Virgin, Liam Gallagher disprezza Wonderwall, Michael Stipe vorrebbe dar fuoco a Shiny Happy People e Ivano Fossati in 40 anni di carriera non ha mai inserito nella scaletta di un concerto la canzone che lo ha reso famoso. La mia banda suona il rock. La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh no, la mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. Ci vedrete in crinoline come brutte ballerine. Ci vedrete danzare come giovani zanzare. Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata. Ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto, e noi dietro col fiato corto, lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta e non sveglia. La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. O oh, non svegliate. Non ancora e non fermateci. No, no, no, no, no. Per favore, no. Istantanee di storia della musica si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta. Ti svogliatamente non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare solo per farti guardare. Tibet, per le montagne, la neve, l'atmosfera rarefatta. Per molti è soltanto Livigno, ma per Lucio Dalla è un luogo speciale, un rifugio, una seconda pelle. Ci va tutti gli anni, da sempre. Scende dalla Jaguar con il suo pellicciotto e il berretto calato sulle orecchie e si sistema a Villa Guelph, una casetta in legno al limitare del bosco. Lì, fra le guglie e gli abeti, riflette sulla vita e la morte, su bene e male, sulle catene che ci opprimono ed i pericoli che ci insidiano. Ogni tanto passa a trovarlo Ron. Bevono molto, cantano un po', firmano qualche autografo. Una volta, proprio qui, hanno scritto una canzone insieme, una specie di filastrocca ambientata da queste parti. Parla di una casa di legno, di una donna piccola, un uomo piccolo e del lupo che vuole mangiarli tutti. C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donna piccola così, con due occhi grandi per guardare, e c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavorare. che non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come sono tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. C'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come sono tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. '91, Reggio Emilia. Domani sarà un giorno speciale, il suo primo concerto chitarra e voce, tutto da solo, davanti al suo pubblico. Ma Luciano non sente niente. Non c'è emozione, non c'è tensione, soltanto annientamento. Suo figlio è morto, meno di un'ora fa. Poco dopo essere venuto alla luce, il suo bambino si è spento, come una candela nel vento. Non esiste dolore più grande per un uomo. Luciano è al volante, guida come in trance nella notte indifferente. Frena, accosta, scende dalla macchina e entra in un campo brullo. Raccoglie tutto il fiato che ha in corpo e urla contro il cielo ogni quintale della rabbia che ha. Quel concerto Luciano lo farà, nonostante tutto, perché the show must go on, ok? Ma soprattutto perché ne ha bisogno. Ha bisogno dell'abbraccio della gente, delle voci che cantano insieme, degli applausi che scrosciano come torrenti e che ti dicono: hey, la vita fa male, ma non sei solo. C'è ancora molto da fare per tutte le persone qua giù. Oh, social, il karaoke ha regalato ad ognuno di noi 5 minuti di celebrità. Non c'era vanità nel cantare leggendo le parole, non c'era secondo fine, interesse, filtro. C'era solo voglia di mettersi in gioco, di rievocare ricordi, di sentirsi qualcuno per il tempo di qualche strofa e poi tornare a sedersi fra gli altri. Erano gli anni d'oro delle foto stampate in formato Polaroid. Polaroid, istantanee di storia della musica, torna domenica prossima alle 23. Alle 23. Su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Alisei. Voce Lucilla. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altre repliche e altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot.